Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il regista Daniele Cini per presentare il suo documentario La febbre di Gennaro, online da venerdì 2 aprile 2021. Daniele, ben trovato. Grazie, anche a voi. Di cosa si parla? Questo documentario che abbiamo fatto tra il 2017 fino praticamente alla fine dell'anno scorso, abbiamo finito le riprese nel febbraio-marzo del 2020. E poi abbiamo finito il montaggio l'anno scorso. Ed è la storia di questo ragazzo che dai suoi 18 anni fino a oggi, che ne ha 29-30, ha dedicato praticamente la sua vita al volontariato, a fare l'operatore umanitario in zone di conflitto. Ed è riuscito ad andare praticamente dappertutto, tanto da arrivare addirittura alla fine di tutti i suoi pellegrinaggi, perfino a Lodi e Codogno dell'emergenza del coronavirus. E raccontiamo insomma la sua storia durante tutti questi percorsi, che è anche un pretesto per raccontare tanti luoghi dove si sta sempre in situazioni di soprusi, in cui lui, come tanti operatori umanitari, naturalmente lui è un singolo, insomma, è un ragazzo che è come tanti altri, ma che insomma vale la pena, di cui vale la pena raccontare la vita, crediamo. Come era nata l'idea di farne un documentario? L'idea è nata da Pampinella, che è anche la presidente dei documentaristi italiani, che è stata per molto tempo volontaria per Peter Pan, l'associazione che si occupa dei bambini comunque emotologici, e volevamo raccontare delle storie dal punto di vista dei volontari, cioè le situazioni raccontate attraverso il punto di vista, la vita, la personalità dei volontari. Avevamo proposto questa serie alla Rai. E nel frattempo, perché prima di avere risposte ci abbiamo messo parecchio, che poi sono stata negativa, ma noi abbiamo deciso di fare lo stesso un primo documentario su uno dei personaggi che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Abbiamo selezionato una decina di varie associazioni di volontariato diversissime, tra Emergency, a quelli che si erano occupati del terremoto, alla Caritas. E questo di Gennaro ci aveva colpito moltissimo. Io l'avevo visto in televisione a novembre del 2017, a Propaganda Live, che raccontava un salvataggio molto drammatico che aveva fatto in mare con la nave Sea-Watch. Mi aveva colpito, l'ho contattato attraverso la trasmissione e ho scoperto che c'aveva anche un altro mondo dietro, non soltanto quello della Sea-Watch. Come sono state le riprese? Come lo avete strutturato? È stato un lavoro lunghissimo, perché Gennaro era sempre via e non era sempre facile, visto che è un documentario completamente autoprodotto, fatto solo con un crowdfunding. Dopodiché c'è stata l'associazione anche della D4 SRL alla nostra società, che si chiama Talpa Produzione, che ci ha aiutato nella parte del montaggio. Però diciamo tutto sulla base di disponibilità, di lavoro gratis, insomma, di tutti noi, e soprattutto è stata molto calibrata dai tempi di Gennaro, perché se lui partiva per il Congo, per esempio, per occuparsi dell'Ebola, come è successo, spariva per 6 mesi, o Yemen, che si è andato per l'emergenza coronavirus, oppure partiva per stare in Niger, insomma, durante le riprese è stato almeno in 4-5 posti diversi, la Repubblica Centroafricana, cose di questo tipo, e noi dovevamo aspettare che tornasse, perché non ce la facevamo organizzare viaggi in tutti questi luoghi. Siamo stati con lui in Colombia, ed è stata un'esperienza molto intensa, dove lui aveva fatto un volontariato con una comunità di pace, di contadini che sono costantemente attaccati, spesso attentati anche mortali, da bande di paramilitari, e quindi loro hanno un ruolo di scorta, praticamente li accompagnano, e quello l'ho fatto anch'io assieme a loro, dorso di mulo nella selva tropicale per spostarsi da un'azienda agricola a un'altra. Come questo ne fa anche altri, non so, per esempio anche la scorta ai bambini palestinesi che sono spesso attaccati dai coloni israeliani mentre vanno a scuola, oppure a organizzare i corridoi umanitari in Libano per portare i profughi siriani dal Libano in Italia. Insomma, ne ha fatte di tutti i colori. Che impressioni ti ha lasciato questa vicenda, l'avventura del documentario? Beh, che c'è un mondo di gente molto generosa che dedica veramente gran parte della propria vita a dare una mano alle persone che ne hanno bisogno, e sono tutte persone che hanno una grande energia e il volontariato gli restituisce molte cose indietro, cioè che non sono persone che fanno questo per eroismo, martirismo, per autopunirsi, al contrario, sono persone in genere sempre molto vive, simpatiche, piene di vita. E quindi mi sembrava bello anche che un personaggio come Gennaro, un altro ragazzo molto normale, non è che sia uno che ha una formazione particolarmente politicizzata, poi magari si è politicizzato facendo questo lavoro, però diciamo lui era un ragazzo normale, diciamo, di 18 anni, che ha cominciato probabilmente attraverso, non so, delle conoscenze dei Boy Scout, e poi ha avuto la sua crescita anche politica e impegno sociale molto più radicale di quando aveva cominciato. Comunque, secondo me, sono tutte persone abbastanza straordinarie, ma non perché facciano delle cose che non possiamo fare tutti, ma perché fanno quello che dovremmo fare tutti. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web? Ho visto che c'è una pagina Facebook dedicata proprio al documentario. Sì, si chiama La Febbre di Gennaro, e quella è la pagina proprio dedicata al documentario. Poi naturalmente c'è anche sulla pagina di Talpa Produzioni, ma soprattutto c'è sui siti di Minerva Pictures, che è quella che sta distribuendo il documentario, che ha girato i festival, ha vinto l'Indy Festival, ha avuto un finalista anche in molti altri, e Minerva ce lo sta facendo girare per le piattaforme. Poi speriamo che abbia anche una vita oltre l'on demand, e circolare anche nelle scuole, nei cinema, quando le cose piano piano speriamo bene si riapriranno. Il documentario La Febbre di Gennaro, online da venerdì 2 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele C. In bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, grazie, o viva il lupo! Con la regista Francesca Borghetti per presentare il suo documentario Climbing Iran. Francesca, ben trovata. Buongiorno a tutti. Di cosa si parla? Racconto la storia di Nazim Eshki, una free climber iraniana che apre vie sulle montagne dell'Iran. Una donna che ha scelto di prendere una strada molto particolare, poiché non sono molte le persone che fanno climbing in Iran, non sono molte quelle che aprono vie, e soprattutto tra le donne non è così facile conquistarsi questo spazio all'aperto. Come veniva fuori l'idea? Sono rimasta folgorata da un articolo di un magazine che la ritraeva con delle foto molto belle, molto spettacolari, arrampicate a una parete di roccia con questo sguardo molto determinato verso la vetta e uno scenario di montagne mozzafiato intorno, e sono partite mille domande nella mia testa: questa donna iraniana, questo è l'Iran, ma allora non ho capito nulla dell'Iran, quali sono le notizie che arrivano da questo paese, se poi in questo paese esistono persone, storie così interessanti, almeno per me, che sono una donna e che ho sempre amato la montagna, ma in particolare mi sono sentita attratta da una donna che nella montagna realizzava se stessa. Così l'ho cercata sui social, l'ho trovata, ci siamo messe in contatto e piano piano abbiamo stabilito una relazione, ci siamo incontrate e lì le ho fatto una prima intervista e ho cominciato a concepire il progetto, anche folle, di fare un documentario su una donna iraniana in Iran. Piano piano ce l'abbiamo fatta. È stato proprio un percorso molto lento e in crescendo, perché sono partita da sola, poi piano piano si è creato un gruppo, abbiamo fatto un crowdfunding che ha avuto anche delle difficoltà, nel senso che siamo arrivati al traguardo, ma poi i soldi sono stati congelati per via della parola Iran, perché all'epoca appunto le sanzioni americane con Trump si sono inasprite moltissimo, mentre in epoca Obama quantomeno si era andato verso un clima di distensione con l'accordo insomma sul nucleare, quindi questo crowdfunding ha avuto un po' di difficoltà, però poi si è unito una casa di produzione, siamo andati avanti, la Trentino Film Commission, il MIBACT, e intanto sono passati gli anni, ma comunque piano piano ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo realizzato questo documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, quindi il 21 ottobre, è stato molto bello. Però Nazim non è potuta venire, già insomma la situazione era difficile anche per la questione del Covid in particolare. Che impressioni ne hai ricavato filmando e vivendo questa esperienza con lei? Non è facile riprendere una donna iraniana, nel senso mostrarla su schermo, quindi diciamo ho fatto i conti fin dall'inizio con un'incompatibilità nel progetto, perché nel documentario si cerca proprio la verità, si cerca l'intimità, si cerca tutta una sfera che per definizione non è facile trasporre su schermo per quanto riguarda le donne iraniane che vivono in Iran. Noi l'abbiamo fatto con grandissima complicità che è cresciuta nel tempo, abbiamo girato in parte in Italia, quindi con più disinvoltura, abbiamo girato in Iran, nelle montagne, anche in città, ma sì, con tante accortezze, con tante condizioni. È stata un'esperienza proprio molto forte, molto impegnativa da tutti i punti di vista, ecco. Però quello che ne ho sicuramente in questa esperienza è che ho conosciuto l'Iran e effettivamente, come forse avevo sospettato da quell'immagine, è un paese molto bello, molto interessante, molto accogliente, dove è anche facile viaggiare, dove è facile muoversi, dove si condivide anche tanta parte di cultura, per cui non è difficile farsi capire, e però nello stesso tempo mi sono resa conto che è proprio un paese che in particolare sente il barometro degli equilibri internazionali, e quindi nell'ultimo viaggio che ho fatto a febbraio del 2020, quindi quando stavamo tutti per chiuderci nei vari lockdown, anche l'Iran, ho avuto un'impressione molto molto dura, perché gli anni delle sanzioni di Trump hanno proprio indebolito ulteriormente tutti, la popolazione, anche tutta quella fascia di popolazione progressista che è tanta, è grande, c'è tutta una scena cinematografica, teatrale, molto vitale, anche perché è una popolazione molto giovane rispetto alla nostra. E quindi ne avevo proprio ricavato un'immagine di dinamismo e di inevitabile conquista di una maggiore apertura e democratizzazione. Invece poi con questo cambiamento nello scenario internazionale, cioè questo deliberato attacco con queste sanzioni americane, è tutto peggiorato e quindi la classe conservatrice ovviamente ha avuto di nuovo molto spazio, quindi tutti i progressisti, tutti questi giovani, tutte le persone che hanno anche collaborato al mio documentario erano in una grande fase di pessimismo. Però adesso il contesto internazionale è cambiato nuovamente, io quindi insieme a tutti gli iraniani che poi ho conosciuto qui in Italia, a Roma e gli amici che ho lasciato là in Iran, stiamo sperando che piano piano si possano verificare dei cambiamenti che servono comunque molto. C'è uno spazio web dedicato al documentario? Climb in Iran ha una pagina Facebook e una Instagram, si sta piano piano sviluppando, perché appunto il film ha avuto il suo battesimo a Roma, poi pochi giorni dopo hanno chiuso i cinema, quindi è stato praticamente impossibile continuare a fare quello che volevamo fare e che c'è in progetto, cioè accompagnare il film in giro, quantomeno l'Italia, e poi avanti, perché ci sono tante comunità di riferimento che toccano questo documentario e che possono essere interessate, appunto i climber, i free climber, gli alpinisti, e poi ovviamente a questo lato legato alle donne e alla forza delle donne, alla capacità delle donne, alle donne straniere, alle donne che arrivano da un paese lontano, e quindi mi piacerebbe poter portare il film e presentarlo in tante occasioni. Questo lo abbiamo in progetto di farlo con Nanoff, la casa di produzione del film, E nello stesso tempo sta andando avanti anche il livello di sua diffusione sulle televisioni straniere, cioè stanno procedendo in maniera positiva tutta una serie di proposte che ci sono arrivate, quindi probabilmente presto si vedrà sulla televisione nazionale. Climbing Iran, un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Borghetti. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a prestissimo. Con Simone Totola di Officine Ubu, perché per celebrare i 20 anni Officine Ubu ha inaugurato la propria piattaforma CineUbu online da giovedì 25 marzo 2021. Simone, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato finalmente, grazie. Ce ne parli? Come hai anticipato tu, quest'anno la casa di distribuzione Officine Ubu compie 20 anni. E abbiamo pensato che un modo per celebrarla, visto che i cinema sono chiusi e purtroppo non abbiamo modo di celebrare quest'anno questi 20 anni di attività portando in sala dei nuovi film, abbiamo pensato che un modo per consolidare il nostro rapporto con il nostro pubblico era quello di reinventarci, di aprire la nostra piattaforma streaming. Quindi appunto, come hai detto tu, settimana scorsa, giovedì, è nata cineubu.it, dove è subito disponibile l'intero catalogo di Officine Ubu, tutti i film distribuiti in questi 20 anni di attività, sia quelli arrivati al cinema, quelli arrivati attraverso altri canali. È una piattaforma streaming a noleggio, quindi non necessita di nessun tipo di abbonamento, basta solo registrarsi, una procedura semplicissima, e poi sfogliare il catalogo e trovare il film che vi piace e semplicemente cliccare play. È una piattaforma nata ovviamente da una settimana, quindi anche noi ci stiamo un attimo abituando all'idea di gestirla, ma il feedback è già ottimo perché il nostro pubblico di qualità l'ha già recepita, visto che tutti i film che hanno caratterizzato la nostra filmografia sono disponibili. La varietà è tanta perché sono circa un centinaio di titoli tra documentari, commedie francesi, film da festival, cult provenienti dall'America, film indipendenti, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, perché in 20 anni di attività abbiamo provato a spaziare un po' da un genere all'altro. Guardando tutta questa mole di opere per 20 anni di storia, che bilancio ne fai? È ottimo, nel senso che, adesso tralasciando chiaramente questi ultimi 2 anni che sono stati tremendi per il nostro settore, però il bilancio è ottimo, nel senso che Officine Ubu è una casa indipendente che ha sempre cercato di differenziarsi, cercando di portare in Italia quei film che avevano comunque una loro personalità, un lato originale che era difficilmente riscontrabile in altri film, ed è stato questo l'obiettivo principale che il nostro direttore Franco Zuliani, quando l'ha fondata 20 anni fa, si era prefissato, quindi appunto portare in Italia film originali dalla forte personalità. E penso che ci siamo riusciti, senza dubbio, perché i film che spesso vengono presentati ai festival, che sono quelli che noi solitamente andiamo a cercare, ce ne sono così tanti e purtroppo è una piccola parte di quelli che riescono ad arrivare in Italia. E avere la possibilità come casa indipendente di poterli portare in Italia è sempre per noi una grande soddisfazione, quindi senza dubbio il bilancio di questi 20 anni per noi è ottimo e siamo orgogliosi di essere ancora qua e di essere ancora in attesa di questa riapertura, di questa partenza, perché abbiamo ancora un sacco di altri film pronti da far uscire al cinema. Ecco, proprio a questo proposito, lo stravolgimento portato dal virus, quali trasformazioni ci imporrà da qui in poi? Io credo che la passione per il cinema è una passione che secondo me è incancellabile. Indubbiamente le persone vorranno tornare al cinema in sicurezza ed è giusto che sia così, però io penso che alla riapertura ci sarà comunque una voglia ritrovata di andare al cinema, perché è un anno e mezzo ormai che siamo in casa e di vedere i film sulle televisioni ci siamo un po' tutti stancati. Quindi io penso che questo anno e mezzo di fermo abbia probabilmente un po' anche riacceso quella voglia di tornare in sala, perché comunque l'idea di vedere un film, che sia la piccola commedia francese, ma anche il blockbuster, e vederli comunque sul grande schermo, in una sala buia, è comunque un valore aggiunto che non può essere ripetuto in casa su un televisore, per quanto grande possa essere. Quindi io spero e mi auguro e sono confidente che alla riapertura le persone potranno ritornare a sognare al cinema sul grande schermo. Ci lasci tutti i riferimenti? CineUbu. It, lì trovate tutto il catalogo che potete sfogliare, potete consultare, ci sono anche i trailer, le foto dei film, Invito anche a seguire le pagine social, la pagina Facebook che è Officine Ubu e la pagina Instagram che è Officine_Ubu, dove periodicamente noi aggiorneremo sempre con nuovi contenuti che riguarderanno sia la piattaforma, in caso di promozioni, di aggiunte di nuovi titoli, ma anche tutte quelle novità che riguardano la, speriamo, imminente riapertura delle sale cinematografiche con le informazioni dei film che saranno per uscire. Quindi è un modo per rimanere sempre aggiornati su quello che accadrà nei prossimi mesi. La piattaforma CineUbu online da giovedì 25 marzo 2021 per celebrare i suoi 20 anni. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, ciao Federico, ciao, grazie. Con Guido Casali, direttore della piattaforma Nexo Plus. Guido, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti di questo progetto? Questo progetto intanto ha visto poi la luce il 10 marzo, quindi quasi un mesetto fa. È un progetto che nasce in seno all'esperienza di Nexo Digital, che è un distributore e produttore cinematografico dedicato soprattutto ai cosiddetti contenuti alternativi, quindi documentari, opera, balletto, musica pop e rock da portare al cinema. E negli ultimi 10 anni l'ha fatto in maniera molto buona, lo posso dire senza falsa modestia, perché io sono arrivato un annetto fa, quindi il lavoro l'avevano già fatto loro, e io arrivo da un'esperienza di 10 anni in Sky Art. E questo è un progetto che nasce intanto prima della pandemia, poi ha avuto purtroppo, o per fortuna, insomma, un'accelerazione durante i mesi di fermo del cinema. Ed è un progetto che vuole andare in continuità con l'esperienza di Nexo Digital, che ormai è un'esperienza che ha più di 10 anni, e sicuramente non in alternativa con l'attività delle sale. Infatti non siamo qua che mordiamo il freno sperando che, insomma, tra qualche settimana le sale possano riaprire e si ricominci quindi a portare contenuti in sala. Però intanto abbiamo creato, l'idea era questa, un prolungamento dell'esperienza che il nostro pubblico aveva in sala, creando una piattaforma che appunto è Nexo Plus, una piattaforma cosiddetta SVOD, SVOD, e quindi una piattaforma principalmente ad abbonamento, che appunto in continuità con quello che ha fatto Nexo Digital negli ultimi 10 anni, ha portato su questa piattaforma, da cui si può accedere da smartphone, smart TV, Apple TV, insomma tutte le modalità a cui siamo abituati ormai ad accedere alle piattaforme, ha portato appunto i contenuti, una parte erano i contenuti che Nexo Digital ha portato al cinema in questi anni, e poi ci siamo, insomma, l'appetito viene mangiando, e ci siamo un po' allargati e siamo partiti con 1500 ore, adesso di più già, di contenuti che spaziano dai grandi documentari d'arte, dalla musica lirica, il balletto, la classica, i grandi concerti rock, i grandi documentari, i cosiddetti documentaries sul rock, i current affairs, quindi grandi documentari che vincono premi nei festival in tutto il mondo e raccontano i tempi in cui viviamo, la storia recente, la storia del Novecento, la storia più antica, arrivando alle antiche civiltà, all'archeologia, e poi il grande cinema, quindi abbiamo diverse centinaia di titoli di film che vanno dal film d'autore alle commedie francesi più recenti, insomma evidentemente comunque con un taglio autorale, con dei titoli molto belli in collaborazione con distributori italiani. E la cosa molto interessante secondo me da dire, appunto, nasce come una piattaforma italiana ma con l'idea di portare poi il meglio della produzione e distribuzione francese, tedesca, inglese, americana, insomma da tutto il mondo orientale su questa piattaforma, che ha alla base una scelta editoriale, quindi c'è un lavoro di una redazione, una valutazione dei contenuti, una scelta, una ricerca e poi un modo di proporre questi contenuti che è il frutto di queste scelte editoriali. È strutturato a sezioni? Chi arriva su Nexo Plus si trova intanto il primo bastione in cui tappa, diciamo, sono i 9 mondi di Nexo Plus, quindi sono 9 mondi tematici che sono quelli di cui parlavo. Dopodiché, scrollando come si fa normalmente appunto su una pagina web o su una piattaforma, si arriva invece poi a una serie di proposte, appunto come ti dicevo, editoriali, che sono delle playlist, delle collezioni, diciamo, dove questi contenuti vengono presi dai loro mondi e invece messi insieme per associazioni, per contrasto, lavorando su avvenimenti di attualità ricorrente, grandi anniversari, con l'idea di appunto poi portare questi contenuti a pubblici diversi, nel senso che mescolati in una logica di contaminazione e di crossover insieme con altri contenuti. Quindi l'idea è di favorire poi l'inciampo positivo, ovviamente, su contenuti che magari spesso o non vengono proposti o vengono soffocati da contenuti che su altre piattaforme evidentemente e anche legittimamente hanno maggiore spazio, quindi le grandi serie TV, i blockbuster cinematografici. Qua invece l'idea è di far emergere contenuti bellissimi, perché poi qua la responsabilità editoriale è comunque di garantire una qualità visiva e narrativa dei contenuti, ma poi appunto io arrivando su Nexo Plus magari mi imbatto in un'opera e non avevo mai visto il Rigoletto e mi diverto tantissimo perché non avevo mai provato nulla del genere, viceversa mi imbatto in un bellissimo documentario sulla musica dell'Alabama negli anni 60 e 70, che con Muscle Shoals, che è un documentario a cui sono particolarmente affezionato, invece incrocio Honeyland, che è un bellissimo documentario sulla sostenibilità ambientale, sul rapporto tra uomo e natura. Insomma, l'idea è quella poi di creare degli incontri, degli incroci che il pubblico possa apprezzare. Ci sono anche contenuti extra come approfondimenti, interviste? Sì, ci sono contenuti anche in questo senso, per esempio sul 26 sulla ricorrenza della morte di Beethoven ha esordito sulla piattaforma una specie di lezione concerto con Alessandro Baricco, con l'orchestra giovanile di Ferrara, dove raccontava 5 cose da sapere su Beethoven, ma accompagnato e inframmezzato dalla musica dell'orchestra, quindi questi e molti altri sono gli approfondimenti che abbiamo. E altri ne stiamo creando, nel senso che poi l'obiettivo è di coinvolgere anche personalità della cultura, della musica, dell'arte e del cinema per arrivare poi sulla piattaforma e lavorare anche con la piattaforma. Quello che vorremmo è anche creare dei momenti in cui uno scrittore, un intellettuale, un filosofo, un regista arriva sulla piattaforma e fa la sua selezione. Quindi tra le 1500 ore che abbiamo sulla piattaforma magari avremo poi la proposta editoriale di uno dei protagonisti della cultura, come dicevo, della musica e del cinema. Quindi creare magari anche dei contenuti ad hoc in cui queste scelte sono raccontate, no? Ci lasci tutti i riferimenti? Nexo Plus o Nexo Plus, poi si può pronunciare come si vuole, o con il più, da lì si arriva alla pagina di accesso, da lì si può appunto, come dicevo, registrandosi, partire con una prova gratuita di 7 giorni, dopodiché l'abbonamento è di 9,99 al mese e o con la possibilità di avere degli abbonamenti annuali con uno sconto invece di un mese, e da lì poi si ha accesso a tutti i contenuti, nel senso che poi a tutti i contenuti di cui abbiamo parlato sono sotto abbonamento. La cosa che ci piace molto e testimonia anche lo spirito inclusivo, nel senso che questa piattaforma, come ti dicevo, vuole abbattere delle barriere verso contenuti che magari spesso sono un po' nascosti, e questo spirito inclusivo abbiamo anche coinvolto sul lancio 4 in realtà sul territorio, dei compagni di viaggio, diciamo, che già sul territorio questo lavoro di divulgazione, promozione, creazione di arte e cultura, insegnamento anche, hanno fatto in questi anni, e quindi abbiamo dedicato loro delle costellazioni che noi abbiamo chiamate così. Sono delle aree dove ci sono i contenuti di questi soggetti, le costellazioni perché sono delle mappe celesti che ci aiutano a orientarci, e questo per noi hanno fatto questi soggetti, e quindi siamo partiti e altre ne arriveranno. E abbiamo la Scuola Holden di Alessandro Baricco, abbiamo il Far East Film Festival, che è un bellissimo festival a Udine che copre tutto il cinema orientale. Abbiamo Elisabetta Sgarbi con la sua nave di Teseo, che come sai è una casa editrice molto attiva, ma anche poi la sua attività come regista e come organizzatrice di eventi sul territorio, in particolare la Milanesiana qua a Milano. E poi abbiamo il mondo di Feltrinelli e Real Cinema con il loro catalogo di film e documentari. Dicevo, queste sono 4 costellazioni con cui partiamo, poi stiamo già lavorando con altri soggetti, festival, archivi, istituzioni, istituzioni e fondazioni che metteranno su Nexo Plus i loro contenuti e li racconteranno insieme con noi. La piattaforma Nexo Plus, un saluto e un ringraziamento al direttore Guido Casali. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, a presto, molto a presto spero. Grazie Federico. Con Oscar Iarussi, uno dei curatori di Libri al MIAC, Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema. Oscar, ben trovato. Buongiorno a voi. Ci parli di questa iniziativa? Si tratta di una delle iniziative messe in cantiere dal MIAC nelle more di questo periodo di chiusure, in cui appunto tutti i musei purtroppo sono stati a lungo e permangono serrati, quantomeno nelle zone rosse, e quindi si è pensato di varare intanto una prima iniziativa che andasse sui canali video, web del Museo Cinecittà, allestendo una serie di incontri con autori di libri sul cinema a fine degli ultimi mesi. Abbiamo cominciato appunto con il libro sulla mafia e il cinema, edito da Donzelli e Emiliano Morrone, e proseguiremo poi con altri, ne parleremo, ci sarà la Giulietta Masina di Gianfranco Angelucci e il libro su Scuola di Paola e Silvia Scuola delle figlie del grande regista. Si tratta di incontri non con la modalità, tra virgolette, Zoom che va per la maggiore, ma di incontri videoregistrati, quindi con un format televisivo, tra virgolette, professionale, videoregistrati lì al MIAC, nel Museo del Cinema dell'Audiovisivo che si trova presso Cinecittà, che è uno spazio assai interessante, assai prezioso e assai duttile, che presto ci auguriamo tutti riprenderà vita subito dopo questo periodo così nero, e gli incontri che fanno il focus appunto su alcuni grandi protagonisti o alcuni grandi temi del nostro cinema, della nostra cinematografia recente, attraverso autori di prestigio che raccontano i loro libri e in occasione di questo rivistano questi periodi o questi protagonisti del cinema. Si tratta di interviste, per finora condotte da Angela Di Consoli, e di materiali di repertorio di grandi film del passato che vengono appunto proposti al nostro spettatore. Come era nata l'idea? Da due esigenze distinte e al tempo stesso consonanti. Dal tentativo di fare qualcosa per avere una relazione con i possibili fruitori del MIAC, in un periodo in cui purtroppo non è possibile andare o diciamo venire al MIAC, e dall'altra parte dalla necessità di proporre dei temi anche legati all'editoria sul cinema, in ogni caso al cinema di qualità, al cinema italiano più prestigioso, senza affidarsi alle modalità, per carità, purtroppo necessarie, ma inevitabilmente un po' improvvisate, degli incontri on streaming sul momento. Quindi l'idea di costituire comunque un incontro che ha un suo formato aperto, ma molto sorvegliato dal punto di vista dei contenuti, molto rigoroso e contemporaneamente molto piacevole, perché sono interviste in cui al tempo stesso si recuperano dei spezzoni di film del passato. Non so, nel caso della prima intervista, quella di Emiliano Morreale, si vedono degli stralci del Nome della Legge di Pietro Germi o da film di Naresco o da altri classici del cinema. Ecco, con gli altri curatori come state spaziando nelle scelte? Abbiamo individuato intanto una rosa di libri tra i più recenti, apparsi negli ultimi mesi, sostanzialmente da quando purtroppo è esplosa questa vicenda della pandemia, quindi libri che non hanno avuto la possibilità di essere diffusi quanto avrebbero meritato. E d'altro canto seguiamo una scansione ideale relativa anche a quelli che sono per esempio gli anniversari. Nel caso di Giulietta Masina è stato da poco ripubblicato, è stato il piccolo classico, la biografia su Giulietta di Gianfranco Angelucci, sceneggiatore, sodale di Federico Fellini, insomma autore tra i più accorti e acuti nella rilettura delle esegesi del mondo felliniano, e come forse qualcuno dei nostri ascoltatori saprà, si tratta del centenario di Giulietta Masina, che è nata nel 1921, e quindi in questo caso abbiamo voluto rendere omaggio alla grande attrice nel cent'anni della nascita. Per Scuola, anche in questo caso, si è trattato di rinnovare, rinverdire una relazione fervida tra un protagonista assoluto e per Scuola del nostro cinema e Cinecittà stesso, senza dimenticare che Scuola a Cinecittà ha ambientato alcune delle scene di Che strano chiamassi Federico, il suo ultimo film, che era a sua volta un omaggio a Fellini. Ci sono in realtà nella storia di Cinecittà, che il MIAC inevitabilmente probabilmente riflette, una serie di figli, alcuni manifesti, altri più segreti, che legano la grande famiglia del cinema italiano con le sue contraddizioni, per carità non si tratta di edulcorare una storia in qualcosa di sbiadito, con le sue contraddizioni, i suoi conflitti, ma si tratta pur sempre di una grande famiglia che intorno al della storia cinematografica. Come saggiamente ricorda Monreale nella prima intervista, il cinema italiano, dal dopoguerra in avanti, è uno dei cardini della nostra storia tout court, insieme al bel canto dell'Ottocento e probabilmente alle arti rinascimentali. Quindi si tratta di un importante stralcio della storia italiana, per quanto tale, che cerchiamo di sondare facendoci guidare da libri, da saggi o da memoir di un certo rilievo, con un occhio anche a quella che è la diffusione di questi testi. Parlo di Scola, Giulietta Masina, del cinema sulla mafia, quindi si tratta, come vedete, di temi molto popolari, non di nicchia, che vengono tuttavia rivisitati da studiosi di prestigio. Vi siete dati una data di chiusura o andate avanti a tempo indeterminato? Per il momento abbiamo appena cominciato, perché Bibliomaniaca si è iniziato appunto in questo weekend e in quindicinale, quindi non ci siamo dati delle date, anche perché in questo contesto così imprevedibile darsi delle date diventa difficile. Per il momento andremo avanti e poi si vedrà quando sarà possibile tornare agli incontri in presenza. Immagino si affiancheranno anche delle opportunità dal vivo a questo nuovo formato online, del quale vedremo la fortuna, quindi vedremo come sarà accolto. A giudicare dalle prime reazioni direi bene, ma naturalmente bisogna darsi il tempo per capire qual è la reazione. Libri al MIAC, Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Oscar Iarussi. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, credo il lupo, grazie. Con Giancarlo Domenghini, direttore della 15ª edizione dell'Integrazione Film Festival a Bergamo dal 7 all'11 aprile 2021. Giancarlo, ben trovato. Buongiorno, salve. Ci racconti quali sono le caratteristiche di questo festival? Le caratteristiche principali di questo festival sta proprio nel suo nome, che è un festival a tema. E quindi lo spazio dato al cinema, quello corto e quello documentario, ma che tratta i temi dell'integrazione tra persone di diversa appartenenza culturale, provenienza nazionale, chiamate a convivere sullo stesso territorio. È quella sorta di traguardo di un sistema sociale che, in questo caso fortemente sollecitato dai flussi migratori, si auspica perché tutti si possa star meglio. E nel porsi un pochettino questo obiettivo, il festival nasce e cresce in un territorio della Bergamasca dove i flussi migratori avevano un'incidenza significativa, dove si è ritenuto opportuno inserire quale strumento operativo delle politiche di integrazione di quel territorio anche la cifra del festival e del cinema, perché appunto si possa essere aiutati a capire quando questa integrazione arriva e quali caratteristiche può avere, e quindi è anche bene provare a perseguire. E il cinema, che ha come caratteristica quella di sapere anticipare il futuro, ci viene in aiuto da 15 anni, perché questa è la 15ª edizione e siamo molto contenti di riuscirci anche quest'anno, malgrado i tempi che stiamo vivendo, o proprio in virtù dei tempi che stiamo vivendo, dove le restrizioni sociali stanno ulteriormente allontanando questo traguardo di cui parlavo. Quante opere saranno presentate in questa edizione? Tra questa edizione che ha selezionato 10 cortometraggi e 5 documentari, più alcuni film fuori concorso, questa è stata un'edizione che siamo contenti, ha avuto iscrizioni da tutti i 5 continenti e siamo contenti che appunto a questo aspetto geografico ha probabilmente sopperito a un aspetto invece storico di un periodo dove il fare cinema non è stato molto facilitato e quindi temevamo una contrizione e invece qualcosa è arrivato. Tra l'altro sono opere che soprattutto parlano di altro, non mettono al centro il Covid, tranne un bel documentario di Elia Mutamid che proprio si intitola Covid. Come si articolerà il festival? Queste 15 opere in concorso saranno presentate nelle 3 serate iniziali, il 7, 8 e 9 di aprile, in diretta streaming. Purtroppo Bergamo e la Lombardia sono zona rossa e quindi non riusciremo ad avere almeno la formula mista che abbiamo sperimentato l'anno scorso, di avere sia in sala che poi da casa il pubblico collegato. E il sabato 10 avremo poi la serata di gala con l'annuncio dei premiati, e quindi proietteremo i film decretati vincitori dalla giuria che ha assegnato il primo premio al miglior cortometraggio, dalla giuria che ha assegnato il primo premio al miglior documentario, da una giuria Basso Sedino, che appunto è questo territorio dove il festival nasce e che ha voluto esprimere un po' un suo sguardo sulla selezione di quest'anno, e anche il pubblico sarà invitato a votare. Da fare un po' da fil rouge su tutte queste quattro serate, la web serie Afropoliten di Soraya Milla, che da Parigi, incrociando le dita, sarà nostra ospite e accompagnerà questo nostro festival con questo suo nuovo prodotto che abbiamo scoperto l'anno scorso e deciso di appoggiare anche fornendo la sottotitolatura in italiano, perché proprio apre a tanti di quei temi che il festival in questi anni ci ha fatto scoprire, e cioè che si può parlare di integrazione a partire dall'immigrato di prima generazione, ma poi ci sono anche i giovani con background migratorio che hanno un loro ruolo e che ultimamente sta emergendo in modo forte e anche assertivo. Oppure c'è la questione di chi è nuovo italiano, e quindi poi la si gioca in quella dinamica lì, ma c'è anche un cinema che interroga il cinema nel modo in cui viene rappresentata questa diversità che l'immigrazione porta con sé. E Afropoliten è una web serie fatta da afrodiscendenti francesi, e quindi la Francia ci apre un po' questo sguardo che l'America quest'anno, per esempio, ci ha messo sotto gli occhi con il Black Lives Matter. Ci dai tutti i riferimenti web? if-filmfestival.com è il sito dove ci saranno tutte le indicazioni per finire sulla piattaforma, dove poter assistere alle dirette delle serate con Soraya Milla e anche con Fatou Sokna, invece lei afro-romana, sarà nostra ospite, l'abbiamo scoperto l'anno scorso, il protagonista del cortometraggio vincitore della 14ª edizione I Am Fatou di Amir Ramadan, e poi tutti i film saranno disponibili sulla piattaforma fino a domenica 11. IF, Integrazione Film Festival, 15ª edizione in streaming dal 7 all'11 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giancarlo Domenghini. In bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, buon lavoro anche a voi e incrociamo le dita. Buon festival a tutti. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.